YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. La terza ora del sabato del villaggio che diventa RadioTube. Beh, già per 2 ore ci siamo divertiti, poi abbiamo avuto Calcutta, mi sono molto divertita perché lui è un personaggio davvero molto particolare. Gliel'hai detto che odi gli indie? Gliel'ho detto. No, dai, davvero? Gliel'ho detto. E lui ha detto che sì, lui non c'entra niente. Però è troppo faticoso, cioè se non andare d'accordo con qualcuno, che va bene così. Lui è sul divano, tranquillo, lui è sul divano. Senti, et Marta Cagnola. Sì. Devi dire però et di Bellasio. Et di Bellasio, sì. Scusa. Noi che siamo qui a Cancelletto RadioTube. Sì. Ho scoperto bello figo. Tu non mi hai... Cioè, scusami, noi facciamo da 4 anni una trasmissione che si occupa di queste. Sì. Di queste. Sì. E non mi hai mai parlato di bello figo. Incredibile, tutti parlano di bello figo. Perché mi guardi? No, scusa. Bello figo. Adesso ho visto su Facebook, no? Tutti, sì. Perché ha litigato, non possiamo dirlo, però ha litigato in televisione con un politico molto importante. Sì, oggi non si può parlare di niente, parleremo di tutt'altri argomenti. C'era un video di bello figo di una canzone, perché tu non me ne hai mai parlato. Senti, senti questa canzone. Io gioco sempre a FIFA 17. Tutti i miei amici, dai, giochiamo. Io vi giuro che io vi saccagno. Prendo la... No, scusa Daniele, adesso... Musica proprio, eh? Ma Daniele, ma noi ne abbiamo parlato mesi fa di Bello Figo. Ma no, ma ne avrei parlato con Pagliarini. Daniele, noi ne abbiamo parlato a lungo. Cioè io c'ero. Tu c'eri. Anzi, facciamo una cosa, ti faccio sentire qual era la canzone. Ma e così... tipo quanto tempo fa ne abbiamo parlato? Guarda, almeno a settembre. Aspetta. La canzone è... era questa. Francesco Totti. Te la ricordi adesso? Sì, no, ma io sì, ma io pensavo che fosse tipo uno scherzo, qualcuno che faceva un rapper. Tu non mi prendi mai sul serio. No, del tutto mai. Ecco. Ma scusa, ma quindi lui è un rapper vero? Ma certo. Allora facciamo che la prossima volta che ti faccio sentire qualcuno, sì, faccio un disclaimer, sono seria. Sì, esatto, oppure dimmi come fai ogni tanto. Guarda, che di questo mi chiederai fra qualche mese, perché nel frattempo te lo sarai dimenticato. Va bene così. Per esempio, allora, secondo me il problema è che noi parliamo troppo presto. Cose. Per esempio, a un certo punto, noi 7-8 anni fa, prima che iniziasse RadioTube, avevamo parlato di un bambino di 2 anni e mezzo che cantava. Si chiamava Rovazzi. Rovazzi cantava. No, allora, la verità è questa: noi avevamo scoperto Rovazzi quando aveva fatto addirittura un milione di visualizzazioni. Ci sembrava enorme. Abbiamo detto, ma questo ragazzo... Poi non avevamo fatto conto che avrebbe fatto qualsiasi cosa. Però l'avevamo invitato a Radio 24 per parlare di questo inizio. E lui era venuto. Sì. Dopo settimane, i colleghi in radio mi facevano: ma hai sentito questo Rovazzi? Ma come ce la stiamo tirando oggi? Ma no, stiamo sbagliando. L'ho inventato io. No, il momento dell'autocitazionismo. La verità è un'altra. Qual è? Ti fa male, lo sai. È che i giornalisti sono vecchi e noi siamo più giovani. Sì, noi... Tu sei più giovane. Comunque, Rovazzi, ho scoperto, adesso c'è tutto un dibattito. Dopo questo rido da sola. C'è tutto un dibattito, perché Rovazzi nel video, questo qua, adesso quello te lo nuovo mostro, praticamente fa tipo un saluto con le mani, ve lo mostro alla radio. Praticamente la faccia va dentro l'avambraccio va dentro questa cosa qui e le mani vanno un po' dietro. Ma io ti posso fotografare, Rocco, e c'è anche Alessandra Scaglioni che mi sta prendendo in giro mentre che sta facendo anche lei davanti. Perché tutti i bambini fanno questa cosa, sì. Però c'è dibattito, non è detto che sia certo per Rovazzi, perché c'è anche un balletto di Dybala, di giocatore della Juve, tu non sai niente. Non comunque so ti nulla. Mostro il video, vai. Dai, mostriamo vai il video nuovo video di Rovazzi. Tutto molto interessante. Il tuo profilo Instagram è molto interessante. Selfie in casa, selfie al mare, selfie al ristorante. Mi parli dei problemi e della tua vita stressante. Vai palestra, l'estetista, giornata pesante. I nostri fare in testa fiori e bocca gigante. E della tua foto dove sbocci in discoteca. Aspetta che ti mostro il cazzo che me ne frega. Quindi adesso tuo figlio, anni, no, 8. Oh, sì, quasi 9. Si può cantare un ca- tanto. Ulca, che me sì, ne frega. All'inizio il video l'hai visto, sì, no? Cioè, sì. Con De Luigi, mi pare. Sì, no, e c'è so. Anche Enrico Papi, che ormai è diventato, tornato a essere una grande star. E nel video c'è J-Ax e sì. Fedez, ovviamente i cameo soliti. E niente, lui praticamente, lo siccome lui piace tanto ai bambini, no? Giustamente sì. Lo censurano, dico giustamente. Quindi certo. Lui può dire solo quel ca che me ne frega, lo scrive anche. Quindi perché si c'è può l'esperto dire quel di censura, esatto, nel, di censura che lo censura perché lui va molto con i bambini, va bene. Va molto di moda, va bene. Allora, X Factor, hai visto sì. questa settimana? Ti è piaciuto? Sono tutti tranquilli? No, sono tutti litigano sereni? Sempre anche continuamente. A Risa è sempre al centro delle discussioni. Ha litigato con Manuel, mi pare, no? Il cantante degli ce After l'abbiamo? Hour. Lo mostriamo sì. alla radio. È il cantante degli After Hours, no? Certo che è il vedi? Cantante degli After Hours. Sentiamo cosa è successo questa settimana. Litigano. X Factor. Io per esempio questo pezzo qui non lo conoscevo. Allora sentendo distrattamente mi sembrava che tu dovessi cantare Lady B dei Beatles. Capito? E mi aspettavo, io dicevo ma quando arriva sto ritornello? Io penso che tu con la tua voce possa rendere ciò che è veramente popolare assolutamente fresco e moderno. Quindi io vorrei sentirti più su cose che conosco per capire il valore vero della tua voce e della tua interpretazione. Grazie mille. E allora studia un po', Arisa. Tesoro, scusale, volevo Aia, dirti. Di. I hooligans, the Wonder Wall sono qua. Voglio dire, Manuel, che studierò, ma non tutti sanno le stesse cose e studiano le stesse cose. L'ignoranza è solo di chi sa, di chi pensa di saperne di più. Insomma, l'ignoranza è una cosa che se tu sai Ambedi. E poi non sai, ne sai di più e ne sai di meno. E vabbè, e comunque anche a me piace molto Lady B. Sì, è molto criticata Risa Lady perché B. dice raga. Beh, però anche lì io ogni tanto lo dico raga, ma così per scherzare. Per insomma, sempre gioco. sereno questo X Factor quest'anno, sempre tutto quanto tranquillo. Quanto manca alla fine lì al gran finale? E poco, metà dicembre finisce, quindi siamo agli sgoccioli. Facciamo una cosa, una breve pausa, sì. Così durante la pausa tu mi insegni il balletto di Rovazzi. Di Rovazzi con le mani, dopo lo insegniamo anche Alessandra, passati. Che era venuta in regia. Fuori dai vetri tutti degli studi, tutti che ti guardavano perché stavi facendo il balletto strano, di Rovazzi. Se lo fa Cruciani sembra normale, l'avrà fatto. Fatti una domanda e datti una risposta. Traffico tra poco. Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Radio Tube. Allora, nel frattempo ho capito che hai scoperto di chi era il balletto. Ovviamente, perché ce l'ha detto Cristian Goldoni. Ovviamente, dunque, si chiamerebbe Dub Dance. Mm-hmm. Lo pronuncio male perché non ho dimestichezza con le robe juventine. Perché dovrebbe e nascere. Neanche col balletto. Neanche col. Perché l'ho fatto così male? Ma no, io non lo ma so, è mi sembrava. Mamma mi sembrava mia una volta che faccio una cosa giovane. Vabbè, comunque, Dub Dance era il modo di festeggiare di Pogba. Poi Dybala l'ha preso. E Rovazzi, però l'ha c'è anche rilanciato. Nel video di Rovazzi. Vabbè, bene, comunque, guardatevelo nel video. Parliamo un po' di televisione sì. E di un progetto molto, molto, molto interessante. Di una serie di reportage all'interno di storie che raccontano un problema, un fenomeno, una questione del nostro tempo. Allora, io ascolterei proprio l'introduzione di una delle puntate di questo Mai più bullismo. Per molti ragazzi uscire di casa la mattina e andare a scuola può diventare un vero incubo. Ignorati, insultati, picchiati. Così vivono moltissimi ragazzi durante l'anno scolastico. Non voglio far vedere alla gente di stare male perché so che la gente ne goderebbe solo, soprattutto loro. Dania, 15 anni, vive a Nocera Inferiore. Ha un sogno, sfilare e diventare una modella. Ma questo sogno è la causa dei suoi problemi con le compagne di classe. Loro mi chiedevano delle sfilate, ne parlavo, può essere che questa cosa, il fatto che io secondo loro mi vantavo. Le darò uno zainetto con all'interno due microcamere e un microfono che lei porterà a scuola per documentare quello che le succede. A noi non interessa colpevolizzare nessuno, ci interessa soltanto capire. È ora di dire mai più bullismo. Mai più bullismo, che è una trasmissione davvero interessante. Rai 2, un progetto davvero singolare, e io sono molto contenta di avere in studio con noi il conduttore, ed è colui il quale tira tutti i fili di questo progetto, del quale voglio sapere tutto, Pablo Trincia. Ciao Pablo. Ciao. Grazie di essere venuto qui. Grazie a voi dell'ospitalità. Allora, Pablo, vieni definito il primo social coach che vuole raccontare storie di bullismo. Intanto voglio premettere che sei stato affiancato anche dalle istituzioni, quindi è proprio un approccio molto serio a questo problema, sì, del bullismo nelle scuole. Sì, sì, assolutamente, c'è dentro al progetto anche il MIUR. E questo per noi era importante, perché nel momento in cui poi ci rivolgiamo alle scuole, ai genitori, far capire anche che dietro ci sono le istituzioni sicuramente aiuta. Come hai lavorato? Come hai incontrato questi ragazzi che hanno questo problema e come ti sei avvicinato a loro? Allora, diciamo che questo programma è il frutto di un grosso, grosso lavoro di squadra. Quello che voi vedete ovviamente è la punta dell'iceberg, ma c'è un lavoro sommerso che è stato fatto, che forse è il vero lavoro, che è stato fatto prima di schiacciare REC, e che si è svolto nei mesi precedenti all'estate. C'è stata questa call to action, andata in onda su Rai 2, ci hanno contattato tante famiglie, ogni storia è stata segnalata poi a una psicologa, Maura Manca, che ha dato il suo ok in alcuni casi, in altri casi no, e quindi c'è stato un grosso lavoro, per cui alla fine abbiamo selezionato queste storie, che sono diverse, perché ogni storia secondo me apre uno scenario. Ci sono storie che riguardano più i ragazzi, ci sono storie che riguardano anche un pochettino i genitori, ci sono storie che vanno bene, altre storie che vanno meno bene, per cui secondo me c'è un po' di tutto. E la cosa molto interessante è che veramente quando poi ti immergi, come in tutte le cose, ma quando poi ti immergi in una storia, in una dinamica come questa, vai a scoprire tante cose che non avevi calcolato, per esempio appunto oltre al rapporto che si sviluppa tra i ragazzi ai diversi tipi di bullismo, perché uno è abituato a pensare al ragazzino nell'angolo che prende le botte, ma ci sono forme di bullismo psicologico molto più difficili da raccontare, da documentare, che non sono il cyberbullismo, che non sono Facebook, WhatsApp o uso il cellulare per farti fare le brutte figure. Ci sono tante forme appunto più sottili, più psicologiche, che però secondo me fanno nel lungo periodo ancora più male, perché minano l'autostima. E poi c'è tutto il mondo ovviamente dei genitori, di come i genitori reagiscono, a partire dai genitori delle vittime, ma anche i genitori poi dei ragazzi, dei compagni di classe, dei bulli anche. Io ho visto e invito a vederli tutti su Rai Play, che tra l'altro sta prendendo piede, diciamo, funziona subito, benissimo. Va in onda il mercoledì sera, sì, esatto, tardi, e tanti ragazzi magari twittano ma va in onda troppo tardi, però la risposta è che c'è Rai Play, e poi loro sono bravissimi a trovarlo. A me è piaciuto moltissimo, l'abbiamo sentito anche una spezzone che abbiamo mandato, la premessa, e poi c'è nel tono di tutti i reportage che non si sta né facendo i guardoni dei cattivi né giudicando nessuno. Proprio questo traspare in modo evidente, è un racconto per capire quello che succede. Hai parlato del fatto che ci sono delle diversità nei comportamenti. Dovessi trovare invece un filo conduttore tra le storie che tu hai raccontato di questo fenomeno, quale sarebbe? Secondo me la difficoltà dei ragazzi, delle vittime a esprimersi, nel senso che una vittima di bullismo poi ovviamente non ha una reazione, a volte ha una reazione un po' aggressiva magari, oppure si chiude, oppure è incapace di comunicare in modo normale al resto della classe, e quindi si ritrova, diciamo, chiuso nel suo mondo. Tutti quanti alla fine mi è sembrato che avessero proprio problemi a comunicare con i propri compagni, e qualcuno aveva anche sviluppato un atteggiamento un po' aggressivo di difesa. Quindi questo secondo me è un po' il filo conduttore di tutte le storie che abbiamo trovato, ed è stata, se vuoi, anche la grande fatica che abbiamo fatto, perché guardate che il lavoro che c'è dietro a ogni puntata e che non si vede, perché telefonate, viaggi, sì, perché poi sono tutti soggetti molto delicati, genitori, i minori, gli insegnanti, che comunque hanno un ruolo anche loro. E quindi i ragazzi della Verve, la casa di produzione che ha prodotto questo programma, si sono veramente ammazzati per andare in giro su e giù per l'Italia a testare le storie. È stato un grande grande lavoro, e la cosa interessante è che questo format, che è un format olandese, e tra l'altro è buffo perché la parola bullo è una parola che viene dall'olandese medievale, quindi c'è questa... è stato un format che è stato tentato in diversi paesi del mondo, ma ci siamo riusciti soltanto gli olandesi, noi italiani e gli spagnoli, che però hanno avuto dei problemi perché il tribunale di Madrid glielo ha bloccato per diversi mesi, infatti poi adesso andrà in onda credo a gennaio, per cui immaginatevi la difficoltà nel chiudere le puntate, perché è successo qualcosa in Spagna. In Spagna sì, perché un giudice insomma ha contestato tutta una serie di modalità, poi appunto appena senti parlare di microcamere, scuola, insomma è un tema sicuramente... Beh, ma voi siete attentissimi addirittura, sì, poi appunto c'è l'appoggio del Ministero, quindi... lo dici proprio dici in onda, non tutta la parte però comunque si tratta di una cosa. Quando io sono stato contattato dalla casa di produzione per sapere se ero interessato, la prima cosa che ho detto è: ragazzi, questa roba è difficile. Poi io venivo dalle Iene, quindi figurati, microcamere a lei. E quindi insomma vedevo tutta una serie di criticità che poi effettivamente ci sono state, ma che siamo riusciti comunque a risolvere con il dialogo, tanto lavoro di pubbliche relazioni. Abbiamo spiegato, rassicurato i genitori: ragazzi, guardate che non è un programma in cui vi veniamo addosso, in cui andiamo a puntare il dito, in cui andiamo a indicare, non ci interessa, ci interessa che ne esca un messaggio positivo. E tu hai parlato, Marta, del social coach. Certo. Il social coach è diverso dal reportage, perché il reportage ti racconta una storia, appunto. Qui invece mi sporco le mani, nel senso che intervengo, perché alla fine la cosa, secondo me, bella di questo programma, al di là del racconto giornalistico, è proprio il messaggio che lascia. Cioè, allora, mio figlio e tuo figlio hanno un problema. Bene, io genitore devo capire che la prima cosa che devo fare è cercare un dialogo con te. Non aggredirti, non attaccarti, ma cercare di fare in modo che i nostri figli si parlino, parlare di più, comunicare con i nostri figli, chiedere a loro che cosa succede in classe, perché succede di tutto. Noi lo tocchiamo di meno questo aspetto, ma c'è anche l'aspetto dei telefonini, che ovviamente è molto inquietante. Il cyberbullismo veramente è un fenomeno di cui si parla molto a livello mediatico, ma quello che succede nelle classi tutti i giorni è un qualcosa di invisibile, ed è molto difficile documentarlo, perché infatti credo che il pregio del programma sia questo, cioè portare un occhio in classe dove gli occhi degli adulti non ci sono, a parte gli occhi dei professori, che spesso vengono additati perché non se ne occupano, e forse ogni tanto anche ha ragione, però c'è anche da dire che un insegnante non può sempre necessariamente avere la percezione di quello che succede tra 25 ragazzi nella ricreazione, assolutamente. Quindi è giusto che la scuola si interessi, però è anche giusto capire che deve sempre partire tutto dalle famiglie. Si sporca le mani, ma fa anche dei regali. Allora ne parliamo dopo, facciamo una brevissima pausa e poi rientriamo proprio col regalo che ha fatto Pablo Trincia, una delle ragazze di una puntata di Mai Più Buono. Eolo, internet ultra veloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta Radio Tube. Non dico insomma che devi reagire male, però almeno gli rispondi almeno. No, mi sta zitta. Perché ti stai zitta? E così se ne approfittano, scusa. Non ho coraggio di rispondere al momento. Rispondere a tono fa bene. Oppure, se non ne vuoi fare quello, sii proprio indifferente. Fregatene, sii pungente, buona. Le parole sono peggio delle mani, capito? Peggio di tutto. Ma forse tu dovresti prendere tutti a quattro occhi la persona matura, più autorevole di loro, li prendi faccia a faccia e gli dici: ascolta, parliamo di questa roba, che problemi hai tu con me? A me non mi va bene, passi tu da scemo, io non ci voglio. La risposta? Non ti vogliamo ascoltare. Grazie. Vabbè, allora con delle persone che fanno così non hai più niente da... So che non è facile, perché comunque quando hai la tua età è tutto chiuso in un mondo, il mondo diciamo della scuola comunque è tutto fondamentalmente, perché non è che esci la sera con gli amici, comunque lo fai poco, no? Cioè quando cresci che poi inizi ad avere la tua vita. E quindi può sembrare tutto, però ti assicuro che uno non lo è, e due che comunque non sei tu nel torto, capito cosa voglio dirti? Sì, ho capito. Sì, ho capito. Questa era secondo me la cosa più carina. Dania, protagonista di una delle puntate di Mai più bullismo, va in onda il mercoledì sera tardi su Rai 2, ma poi i ragazzi lo possono rivedere in rete, in particolare sulla app di Rai Play. Non vuoi dire chi era lui? Ovviamente lui era Emischilla. Ovviamente lui era Emischilla. E noi in studio abbiamo sempre il social coach e conduttore di Mai più bullismo, Paolo Trincia. Paolo, com'è stato questo momento? Perché mi è sembrato che, come dire, sì, i grandi mi possono dire qualsiasi cosa, sì, mi possono convincere, però se arriva Emischilla, che solitamente io ho sul poster in cameretta, arriva e me lo dice lui. Grazie. Sì. A un certo punto si sente basso, grazie, mentre parla di altri. Se me lo dice Emischilla, allora certo, forse. Perché le emozioni aiutano a capire. Sì, forse allora se me lo dice lui ha ragione. No, guarda, io è il momento ovviamente più leggero, no, del programma. E a me fa sempre riderissimo quando sei lì con i ragazzi, che gli fai la sorpresa, perché poi noi gli facciamo la sorpresa, no? Gli raccontiamo sempre un sacco di balle, ah guarda, ti portiamo di qua, ti portiamo di là, poi in realtà loro non lo sanno, e mi fa sempre ridere lo stupore, lo shock iniziale, perché in tutte le puntate devo dire c'è questo momento, e devo dire che alcuni io credo che siano molto utili, perché poi per loro sono importanti, no? Emischilla, ma poi nelle prossime puntate vedrete anche degli altri momenti, ed è bello perché ci sono sempre dei consigli, degli insegnamenti che tu vedi negli occhi dei ragazzi, che resteranno, cioè che non se li scordano facilmente, perché io sono lì, faccio il conduttore, ma chi sei? Però Emischilla è Emischilla, capito? Per cui Ma chi sei mica tanto, perché sembra che, cioè, si crei subito un rapporto di affetto. Dicevi prima, no? Che no, pur essendo tu un giornalista anche tradizionale, non hai fatto soltanto le Iene, hai vinto dei premi giornalistici, però fin dall'inizio cerchi di instaurare un rapporto veramente di fiducia, perché probabilmente se non sei credibile con la persona con cui parli non riesci a portare il racconto verso... Questa è un'eredità del programma Le Iene, nel senso che io quando sono arrivato là diciamo venivo dal giornalismo tradizionale, quindi non so, distanza, quel famoso braccio che ti separa dalla persona che intervisti. In realtà poi lì ti insegnano a creare empatia, a creare subito un rapporto di amicizia, ovviamente quando parli con una persona che ha una storia umana, no? Quando sei col politico o quando sei con la persona che invece devi, no, pungolare. E questa cosa, devo dire, è stato uno dei più grandi insegnamenti che ho ricevuto quando ho intrapreso questa carriera, perché la vicinanza e il rapporto umano e il sedersi davanti a una persona e farle dimenticare che c'è una telecamera, certo, e il dimenticarti anche tu che ci sono le telecamere, quindi trattarle esattamente come se fosse davanti a un caffè. Io mi dimentico delle telecamere, e quindi quello che tu vedi è un dialogo vero, sincero, tra due persone che si parlano di un problema, e credo che questo alla fine porti anche a un risultato, anche soprattutto per chi sta a casa, perché poi è importante che chi sta a casa lo veda e reputi la storia, le persone credibili, e che niente sia falso, perché niente deve essere falso. E il rischio appunto in una trasmissione così difficile era quello appunto di apparire non credibili nel racconto, che fosse in qualche modo costruito, cosa che non accade assolutamente. Lo dicevo nell'empatia, mi veniva in mente il dialogo che hai con la mamma appunto di Dani. A un certo punto si vede benissimo che c'è una reciproca comprensione, insomma, bello. Io però voglio parlare anche del modo di lavorare di Pablo, e lo vorrei fare con questo brevissimo audio. Madonna, che schifo, raga. Tu che droga hai provato nella tua vita? Quella proprio più devastante, forse Abu. Sì, Abu, metapetamina, in inglese ice, migliore di tutte droga del mondo. No, c'è un nonno, ma hanno parlato di male di terrorismo. La cosa peggiore che hai fatto sotto effetto di Shabu qual è stata? Ho aperto la testa a uno. Allora Pablo, hai citato le Iene, hai fatto tante cose perché hai lavorato a servizio pubblico, hanno uno sulla 7, e poi questo invece è un esperimento che tu hai fatto per Fanpage, quindi solo online. Sì. Quindi il tuo lavoro prescinde dal mezzo, dal veicolo, anche perché il fatto che appunto adesso anche un reporter, passatemi questa espressione, vero, si cimenti sulla rete, solo sulla rete, su un prodotto fatto solo per la rete, è molto importante. Ma anche perché questi ragazzi di Fanpage sono veramente straordinari, perché hanno veramente, stanno conquistando il web. Concordo, hanno tre redazioni con tanti videomaker, sono sempre sul pezzo, hanno capito che il giornalismo online è video comunque, e non hanno paura a sperimentare. Quindi adesso abbiamo messo in piedi questa serie che si chiama Toxicity, che è andata molto bene, soprattutto il secondo episodio, quello su Nairobi, perché abbiamo fatto oltre 5 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo, perché poi i pezzi sono sia in italiano che in inglese, e abbiamo visto che la risposta è stata pazzesca, perché è diventato virale in Canada, è diventato virale in Mongolia, in Brasile, in Messico, dappertutto. Per cui c'è intanto la libertà totale di esprimersi, non hai un canale, un network che magari ti impone un minutaggio, ti impone dei temi, ma puoi fare quello che vuoi. E devo dire, è stata una scelta azzeccata. Adesso stiamo montando un altro episodio della serie. A me interessa sperimentare tanti mezzi. Adesso sto sperimentando il podcast, per esempio, per cui mi piace l'idea di divertirmi anche con tanti diversi mezzi: la radio, la scrittura, il video. E poi si vedono le commissioni, perché per esempio in Mai Più Bullismo si vedono delle cose che sono... come dire, contemporaneità dei video fatti sulla rete anche, no? Assolutamente. Guarda, la cosa che a me piace di Mai Più Bullismo è il fatto che siamo abituati a vedere i ragazzini che si fanno questi video cattivissimi, no? Che se li poi postano, eccetera. Ma noi abbiamo utilizzato quel mezzo, sì, esatto, per il messaggio opposto. Per il messaggio opposto, cioè, ok, abbiamo fatto una cosa un po' borderline, è vero. Abbiamo portato le telecamere dentro una scuola, dentro una classe. Però... il risultato può essere anche un risultato positivo, e quindi diciamo che è la migliore risposta a chi dice la rete è colpa del falso, è la rete colpa dell'eccesso di insulti, la rete. Questa è la dimostrazione che se il mezzo lo usi dall'altra parte, mi guardi troppo no, serio. No, ma stai facendo un discorso serio, ti guardo rapita. No, perché io mi arrabbio sempre quando si dà la colpa alla rete di qualunque cosa. Sì, perché ogni tanto lui si infervora da solo. Perché come se la rete fosse una persona cattiva. No, la rete non è una persona cattiva, la persona cattiva che sta dietro e che la utilizza in modo... Verissimo. Ecco. Pablo, ultima domanda. Fai un sacco di cose pericolose, continui a fare un sacco di cose pericolose, detto tra noi. Cioè... Tipo? Tipo queste cose sulla droga sono... in mondi particolari, diciamo. Vi posso dire la verità? Io non... io credo che le cose pericolose siano quelle che ti... per esperienza personale, che ti toccano dentro. Nel senso che... entrare in un palazzo con dentro degli spacciatori, cosa che ci è capitata di recente a Praga, non è pericoloso se hai un atteggiamento... come dire, positivo, se sei sicuro di te. E poi il rischio qual è? Che ti tirano una coltellata. Sì, ok, però... sì, capito, no, una ma, coltellata. Sì, però ci sono cose che fanno più male. Cioè, io mi è capitato di trattare storie che invece mi hanno lasciato a me delle ferite profonde a livello psicologico. E quelle sono molto più difficili da sistemare, da mettere a posto, perché non lo so, quando le storie ti entrano troppo dentro e ti condizionano il modo di fare, il modo di vivere o il modo di pensare, allora lì stai facendo qualcosa di pericoloso. Podcast hai detto prima. Esatto. Cioè, che tipo di idea hai da sviluppare? Perché questo strumento che sta prendendo in America, per esempio, stanno grandi giornali dal New Yorker, stanno investendo su questo strumento. Assolutamente. A te perché piace? Che cosa vorresti fare? Io sono rimasto fulminato da Serial, che mi ha devastato la vita. L'ho sentita, ho detto bene, basta, adesso voglio fare questa cosa. Ma poi ce ne sono tantissimi che stanno andando molto. C'è Revisionist History, che è stato per un bel po' di tempo in cima alle classifiche. Ci sono tanti bellissimi programmi, e purtroppo il pubblico italiano, che non, spesso non parla l'inglese, non conosce l'inglese, non può ascoltare. Io sto da 2 anni mi sto occupando di una storia, di un cold case di cui purtroppo per diversi motivi non posso dire nulla adesso, lanceremo a febbraio. È un cold case di fine anni 90, in cui molto pesante a livello psicologico, mi ha veramente distrutto, però mi piace tanto il fatto che a differenza del video io ti dia la possibilità di immaginare, no? Cioè non ti impongo niente, non ti impongo le immagini. Tu sei in macchina, stai facendo la spesa, stai tagliando la verdura e hai la possibilità di immaginare. Ma voi fate radio, quindi non ve lo devo spiegare, nel senso, lo sapete molto meglio di me. Ho scoperto che quanto è bello raccontare una cosa solo in audio, no? E ti giuro, non mi fa dormire la notte. Io ricordo mio nonno che guardava le partite alla radio, cioè c'era la televisione, io la guardavo nel tinello in televisione e lui invece l'ascoltava alla radio, perché la partita la vedeva meglio. Sì, no, io sono assolutamente folgorato, ormai ho il bug della radio che mi ha... Infatti stavo dicendo, allora ne approfittiamo, ormai sai la strada, quando ci vieni a trovare, quando Paolo. Volete. Allora, ricordiamo, il mercoledì sera, tardino, ma comunque lo trovate online, su Rai 2, Mai più bullismo. 23.05 per essere precisi. E Rai Play. Grazie a Paolo Trincia per essere stato con noi. Buon alla lavoro. Prossima. Grazie. Facciamo una breve pausa, ci troviamo tra poco. Eolo, internet ultra veloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta Radio Tube. In questa puntata in cui non si poteva parlare di politica, perché sennò possiamo non si poteva, parliamo di televisione, sono molto contenta. Sono molto contenta anche di parlare di serie TV. E quale serie TV avrà scelto il nostro Daniele Bellasio? Cosa ti è piaciuto? È tornata Sara Jessica. Ah, quindi non ti importava della serie, ti importava di Sara Jessica Parker. Lei è tornata, è stupenda, è bravissima. Io l'ho raccontato tante volte, non mi ha mai creduto nessuno. Io l'ho incontrata a New York. Davvero? Io giuro, l'ho incontrata, ero lì, camminavo per una strada. Non ci credo. Lo so, non mi ha mai creduto nessuno, ma io l'ho incontrata. Lo so, e tanto non mi credono. È tornata, è bravissima. In questa versione c'è un filo di comico in più, sbaglio? No, ce n'è. Ed è stupendo, è più giovane di quando faceva Sex and the City, quindi un miracolo proprio straordinario. È un figlio innamorato, Bellasio, si sente che sei un pochino innamorato. È bellissima. Allora, Divorce. È iniziata il 30 novembre, ogni mercoledì alle 22:15 su Sky Atlantic. E che cosa c'è di diverso da Sex and the City? Beh, intanto ascoltiamo questo brevissimo audio e poi ne parliamo. Ehi Dallas, sai che ieri in farmacia ho visto la nuova compagna del tuo ex? Beh, la buona notizia per te è che ha messo su un bel po' di chili. È incinta di 5 mesi. Già, non ci pensavo. A proposito di nuovi amori, chi è quel signore con il quale stavi parlando poco fa? Oh, si chiama Malcolm, è il nuovo socio d'affari di Nick. L'anno scorso ha perso la moglie, poveretto. Mi sono presa la libertà di metterlo vicino a te a tavola, perciò chissà in che modo andrà a finire questa serata. Credo sia già finita. Ok. A Malcolm e alla defunta moglie. Si chiamava Alice. Beh, devo dire che sono esattamente le amiche di Sex and the City qualche anno dopo. Sarà così? Vabbè, io ho deciso. Quando Daniele mi ha detto voglio parlare del ritorno di Sarah Jessica Parker, io ho detto possiamo parlarne solo con una ospite e sentiamo se ce l'abbiamo al telefono. Non lo so, basta dire che lei è la Soncini. Ciao Guia! Apprendo con un certo sconcerto che decide Bellasio di che serie parlare. No, ogni tanto gli concedo così, no? Proprio dall'alto gli concedo. È molto grave, francamente. Vabbè, ogni tanto bisogna farlo. Hai ragione. Devo dire che non mi sono opposto alla presenza della Soncini nella famosa mail. Noi facciamo le riunioni via mail. Ma questo Bellasio innamorato di Sara Jessica Parker è Guia. Lei è la Pippa Bauda di Sex and the City in Italia. Eh sì. Sei stata praticamente la prima a scriverne... Ma anche a pentirmene, diciamo. Giustamente. Beh, perché ha fatto una quantità di danni che, non so, forse giù sotto Ex Wheeler. Ma perché Tex Willer? No, io allora sui danni di Sex and the City so, quelli di Tex Willer no. No, esatto. Però quelli di Tex Willer sono che ti tengono i maschi in casa, le collezioni che prendono un sacco di polvere, vero, e non gliele vero, puoi vero. Buttare. Ma quelli anche di Sex and the City sono la drammatica questione delle signore di provincia che non hanno mai capito che era satira, hanno pensato che fosse un modello comportamentale. Per cui io l'altra sera, in una sera di gelo assoluto, mi sono ritrovata davanti una mia coetanea che aveva dei sandali dorati con tacco a spillo, forse 15 centimetri, sopra un calzino corto nero. E non sapevo come dirle che non aveva 25 anni e non stava dentro Sex and the City. E che Sex and the City è finito da 15 anni. E che è finito da 15 anni e che certi traumi andrebbero elaborati. Ma Guia, perché piaceva ai maschietti però Sex and the City? Questo è l'interrogativo. Ma chi? Ma quando? Quelli che hanno rinunciato a spacciarsi per eterosessuali come te. Ah, quindi è una roba di omosessualità repressa, tu dici. Beh, vedi ma te, io, non ma lo no, so. Ma io invece pensavo che fosse il mio modo di guardare come dentro gli spogliatoi di una partita di calcio maschile dall'altra parte. Ah, certo, capisci le donne perché guardi Sex and the City, che è un po' come dire che sei zoologo perché leggi Topolino. Senti Guia, questa è bellissima, non mi riprenderò mai più. Posso condurre il meteo da domani? Secondo me sì, possiamo scegliere tra il meteo e la viabilità. Lo sapevo che... Guia, tu hai scritto di Divorce una cosa molto interessante, l'hai scritta strano, su Gioia. Strano, no, ma in particolare nessuno aveva ancora parlato del fatto che si parla di figli e non figli in Divorce. Cioè è forse una delle variabili più forti rispetto a quello che poi accadeva in Sex and the City. È proprio cambiata la generazione, viva Dio, perché insomma se avesse fatto ancora la ragazzina sono signore di 50 anni insomma, certo. Tra l'altro io ho parlato con i produttori per fare un articolo e uno dei produttori esecutivo, lo showrunner come dicono loro, che si chiama Paul Sims, è uno che fino all'anno scorso lavorava a Girls e mi diceva che essendo un signore ultra cinquantenne che finalmente si occupa dei problemi dei suoi coetanei, perché a Girls li guardava un po' tutti come si guardano allo zoo creature, certo, strane. E la morale? La morale qual è? Che solo con l'ironia si superano i 50 anni e i problemi. Ma sai che in realtà secondo me non fa tanto ridere. L'autrice principale, che si chiama Sharon Horgan, è una che ha fatto una delle cose più belle secondo me che siamo passate in TV negli ultimi anni, purtroppo mai trasmessa in Italia, anzi se qualcuno volesse decidersi, che si chiama Catastrophe, che è una cosa che in America è andata su Amazon e in Inghilterra mi pare su Channel 4, ed è la storia di lei inglese, lui americano, che si incontrano perché lui è per lavoro a Londra e fanno sesso una sera pensando di non vedersi mai più e lei invece rimane incinta e quindi decidono di mettere su famiglia. Ed è una cosa che fa ridere da stare male, cioè di una cattiveria assoluta. Per cui io mi aspettavo moltissimo da Divorce. In realtà non mi sembra che abbia la cattiveria che vorrebbe avere. A voi sì? No, la cattiveria no, però i cappotti sono notevoli. Lo dico da maschio, ovviamente un po' omosessuale, e i cappottini sono notevoli anche in Divorce. Ma infatti io trovo, devo dire, abbastanza ridicolo che loro come linea pubblicitaria continuino a dire non ha nulla in comune con Sex and the City, non ha i vestiti costosi, non ha questo, non ha quello. Perché poi comunque Sarah Jessica Parker ha la piega parrucchierata dalle feste di mattina, si sveglia con le ciglia finte. Quindi insomma boh, qualcosa a cui ispirarci ce l'abbiamo. Vabbè. No, insomma il neorealismo è un'altra cosa, ecco. Vabbè, straordinario, però continuiamo a guardarlo. Io lo guardo sì, comunque Divorce, no, finisco no, comunque funziona, la stagione. Funziona. Io voglio vedere tra dove un apparare. The Americans e l'altro. Guia, lo guardiamo lo stesso? Ma sì, poi va dopo The Affair, che tu sai è la mia fissazione assoluta degli ultimi anni, quindi figurati se posso perdermelo. Questo l'ho sentito. Ne ho anche visto una puntata. Ah, vedi, vabbè, una la prossima puntata. Sì, perché cioè, vabbè, mi hanno detto che c'era del sesso, parlo. Un po' l'ho guardato. del sesso, molto bene. Fantastico. Non so, gli dai tu un coppino da parte lo mia? Fa, lo fa. Sì, sì, adesso tanto finisce la trasmissione e lo malmeno. Guia, grazie per essere stata con noi. Basta dire la Soncini. No, però e abbiamo detto tutto. Per un po' di giornali, insomma, vabbè. Quale vogliamo citare? Il giornale non li legge nessuno. Repubblica, non so, Repubblica, giusto, no? Gioia. Gioia, sì, poi so, scrive troppo. Ciao Guia. Ciao Guia, grazie per essere stata con noi. Ciao Guia. E adesso adesso? E adesso hai finito il tempo. Salutiamo Guia Soncini, salutiamo tu anche Sara Jessica Parker. Almeno tu, non mi crede nessuno, allora, a 20 anni. Credi, io ti credo che tu hai visto Sara Jessica Parker se tu credi che io ti dico che io ho visto Yoko Ono a New York. Yoko Ono. Dai, adesso te lo racconto. Yoko dai. Ono proprio è gravissimo. Salutiamo gli ascoltatori. Sì. Vi diamo l'appuntamento il prossimo sabato. E vi salutiamo e ringraziamo Gianmarco, ringraziamo Christian. E noi ci ritroviamo il prossimo sabato. Ciao.